respiro si toglie solo se il cuore ti batte di più. O col bacio sul collo di un'altra bottiglia che butterò giù, che butterò giù. Con la faccia pulita e una pelle che sporca dai lividi blu, sempre di più, come un tattoo. Steso a terra ho chiesto a Dio se c'eri anche tu. Ehi, ehi, ehi, mi manchi tu, questo è un déjà vu. Lo riconosco perché non piango, quel giorno sembravo un mostro. Quel giorno è durato un anno, le nuvole e fango. Un prete prega bardato per farlo. Nel nome del Padre, del Figlio e lo Spirito Santo. Questa messa in scena, me ne vado. Mi ricordo un lago, faceva molto freddo. Ed io da solo in isolamento, mentre col tempo crescevo con un'isola dentro. Se non hai più parole e non sei qui con me, un ricordo banale è tutto ciò che resterà di te. Dio prego, non so se mi spiego. Sono cresciuto pure senza di te, ma sai quanti tagli ormai che non saprò mai più richiudere. Ringrazio il mio ego, non so se mi spiego. Sono cresciuto pure senza te, ma sai quanti tagli ormai che non saprò mai più nascondere. Oh na na na, e la voce si spezza quando parlo di te. So che mi vedi, non sono come credevi. La vita ci ha preso a calci e ci ha unito come due fedi. L'amore rende instabili, forti eppure indifesi. Piangiamo come dei salici, lottiamo come dei guerrieri. Se non hai più parole e non sei qui con me, un ricordo banale è tutto ciò che resterà di te. Che mi resta di te? Un respiro si toglie soltanto se il cuore ti batte di più. O quel bacio sul collo di un'altra bottiglia che butterò giù. Con la faccia pulita e una pelle che sporca dai lividi blu. Non mi manca più il fiato, ma mi manchi tu. Yeah. Oggi è venerdì, scrivo un po' di più. Non mi sento giù, non mi sembro io. Mentre guardo in su, stringo dentro gli occhi la tua stessa luce. Mentre un ricordo mi strappa il cuore, c'è un altro che lo ricuce. Vita toglie, vita dà, vieni sto al solito bar. Fingo di aspettarti ma il ghiaccio si scioglierà. So che non tornerai e no che non tornerai. Ho ancora il biglietto per quel concerto a cui non verrai. Dammi solo un buon motivo, dammene uno, solo il perché. Sei partita senza dirlo a nessuno, niente di che. Mi aspettavo solamente un saluto, siamo io e te. A guardarci tra le nuvole e fumo. Vorrei tornare indietro solo per un addio e dirti che il concerto era il mio. Per dirti quel concerto era il mio.